primo mucchio in area di rigore, attenzione. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca è tornato da un lungo viaggio, è stato a studiare alla radio californiana e tra poco vedrete grandi novità anche a tutti i convocati, in stile surf. Vedo sempre Alessandro Marco Tulli a girarsi con Daniele Bonamici, c'è già Gianmarco Ferronato in regia. La sto prendendo larga perché so che voi vorrete parlare di bombe carta, modelli inglesi, Viminale, Quirinale, amenità del genere, di chi era colpe, di che colore era la bomba carta, se era granata o se era bianconera, pare fosse bianconera e pare che quindi c'è stata una retromarcia rispetto alle notizie che avevamo ieri a quest'ora, pare fosse bianconera e il giudice Tosel potrebbe oggi stesso squalificare la chiudere la curva della Juventus per due partite addirittura, invece di chiudere da qualche altra parte chi ha lanciato quel petardo. Vabbè, so che volete parlare di amenità di queste questioni, fatelo pure, 800 24 00 24. Io preferisco invece partire oggi non dalla bomba carta ma dalla carta moneta, cioè quella che serve per comprare il club più titolato al mondo. Non so se sul pullman si è scritto ancora così o sulle cartellette stampa o su ogni dove, il Milan. Eventualmente ci sarebbe anche la carta che canta, cioè quella della classifica che domani potrebbe incoronare la Juventus campione d'Italia nel turno infrasettimanale, anche se Allegri non ci crede poi molto. Mi aspetto domani che la squadra faccia un'altra bella prestazione, sotto l'aspetto agonistico, sotto l'aspetto dell'intensità, sotto l'aspetto tecnico soprattutto. E poi dopo vedremo, e domani non è che se vinciamo abbiamo vinto lo scudetto, perché siamo legati al risultato della Lazio. Tecnico è la parola preferita di Allegri in questa stagione, avete sentito come la pronuncia, tecnico con 8C. Comunque c'è anche, oggi ho parlato, giorno di vigilia naturalmente, poi facciamo sentire anche altre voci, un Garcia particolarmente arrabbiato oggi in conferenza stampa. Molti di voi avranno visto, tifosi giallorossi e non, il comico video del riscaldamento di Dumbia, che il riscaldamento è stato come quello del pensionato al parco, cioè era l'immobile ad aspettare se doveva entrare oppure no, ma Garcia non l'ha presa bene. E prima che uno mi fa la domanda, per esempio su Sedou Dumbia e questo pseudo tifoso che ha filmato il suo riscaldamento, dove era durante i 14 minuti dell'intervallo quando ha fatto un riscaldamento Sedou Dumbia come l'aveva chiesto per poter essere pronto? Dopo, quando dico a un giocatore di fermarsi perché entrerà un altro come Manu Iturbe, è normale che si ferma. Questo è, come dite voi, rovistare nella spazzatura? Allora questo è rovistare nella spazzatura. Io spero che il tifoso nei 14 minuti in cui si è riscaldato fosse a fare altro, non fosse in campo nello spogliatoio della Roma. Comunque, ho detto prima che invece la bomba carta vorrei partire dalla carta moneta. Ciao Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore. Ciao Carlo, buongiorno. Allora, tu che sai tutto e sei un'autorità in materia, Mister B è a Milano, mettiamo dei paletti, Mister B è a Milano, anzi oggi ho letto che è andato a fare un giro a Ginevra, non so perché, forse a prendere dei soldi, a ritirare del contante al bancomat. A fare benzina è l'ipotesi più probabile. Abbiamo visto molte foto, molti video, non si è nascosto, ha incontrato Berlusconi, lo incontra oggi. Come va questa lo storia? Incontra domani sera. Però mi cogli impreparato, perché tu mi hai chiesto della trattativa relativa alla cessione del club più titolato al mondo, che come sai è l'Al-Ahly egiziano. L'Al-Ahly egiziano, certo. E io mi ero preparato sull'Al-Ahly egiziano. E ma sai, forse non compare più. Ce l'hanno ancora il pullman al Milan? L'hanno venduto? No, ce l'hanno ancora. No, l'hanno venduto. Sì, risulta anche a me. Hanno cancellato la scritta che avevo titolato al mondo e l'hanno venduto. Va bene, quindi il secondo più titolato al mondo. Tornando seri, siamo alle battute finali di questa lunga trattativa, forse l'unica, scopriremo alla fine, che c'è stata, l'unica con delle solide fondamenta. In ogni caso domani sera non ci sarà possibilità di pareggio, è un dentro fuori, perché la cordata che ha messo insieme Mr. B è tale da non aver bisogno, insomma, di prolungare ulteriormente i colloqui. Ha visto le carte, ha visto i bilanci, oggi l'assemblea del Milan ratificherà quella che è la cessione, la perdita maggiore della storia del Milan berlusconiano, con meno 91 e 250 milioni di debiti finanziari, e quindi ha ben chiaro quello che è il valore del Milan, quello che è l'offerta da fare, e soprattutto la percentuale del Milan che si vuole prendere, e quindi la percentuale è non del 75, non del 60 come è stato scritto, ma è la maggioranza, quindi la base della trattativa 51. È la maggioranza, il 51. Dicevo di un dentro fuori, quindi domani sera ci sarà un incontro molto cordiale a cui immagino parteciperanno sia il patron, l'osso nero, che i suoi figli e il suo entourage più stretto. Ci sarà Mr. B con la sua compagna e i suoi collaboratori più stretti, si mangerà abbastanza bene, si berrà, dopodiché, visto che gli studi legali e i consulenti delle parti più o meno si sono già detti tutto, si arriverà al momento fatidico in cui Berlusconi dovrà dire sì o no. L'idea che si è fatto Mr. B è che non ci siano ragioni al mondo per cui Berlusconi possa dire di no. Allora Marco, adesso come sai abbiamo il traffico, poi ti anticipo le domande che ti faccio, perché voglio sapere chi c'è dentro la cordata cui Berlusconi non può dire di no, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori, da thailandesi a cinesi a Singapore. Questo avevi anticipato tu in qualche maniera, perché tu stai seguendo questa pista fin dall'origine. Voglio sapere, la domanda difficile, il domandone però ti tocca, è quella della percentuale di conclusione dell'accordo, e quella sulla carta moneta, quanti soldi dovranno scucire per comprare il Milan. Traffico. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Tutti convocati. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Tutti convocati. Eccoci, mentre sta arrivando anche Pardo in direzione Udine. Marco Bellinazzo, dunque, ricapitolando, la cordata che sta dietro Mr. B, mentre ti do anche questa, Alessio da Bangkok mi scrive: un mio amico Thai è amico della moglie di Mr. B, che abbiamo visto oggi su tutti i giornali, okay, mentre faceva shopping, e conferma che l'interessamento è genuino. Va bene. Questo ci fa molto piacere. Consolida, diciamo, il lavoro svolto finora. Le fonti, quanto esce dalle fonti, sì. Allora, cordata, chi c'è dentro? Allora, sulla cordata abbiamo due pilastri. Dopodiché sui nomi diciamo saremo più precisi, sì, più avanti, come si dice in questi casi, sì, nelle piattaforme multimediali, magari domani sul giornale, sul sito, sì, insomma. In ogni caso c'è una pista molto solida e concreta che ci porta negli Emirati, ad Abu Dhabi in particolare, quindi un soggetto finanziario di Abu Dhabi che metterebbe i soldi, che presterebbe i soldi. L'altro soggetto, qui secondo me è la parte più interessante ed anche il motivo per cui prima ho parlato forse dell'unica trattativa che ci ha visto interessato in questi mesi, anziché di una doppia cordata, perché a finanziare l'acquisto del Milan sarà una banca o più banche cinesi. ma lo faranno su indicazione di membri molto influenti del Partito Popolare Cinese. Quindi quella voce iniziale per la quale Berlusconi aveva detto so che il primo ministro, che so che il Presidente della Repubblica cinese è interessato al progetto, non era così campata in aria. Sì. In verità c'è tutto un percorso che la Cina sta facendo per portare al centro dei suoi interessi sportivi il calcio, per utilizzare il calcio come un'ulteriore leva di politica sì. economica, fino a poter ospitare poi un'edizione del campionato mondiale e avere tra i propri asset il Milan, che comunque è tra i primi tre brand calcistici al mondo conosciuti in Asia, sarebbe un grande vantaggio, il che legherebbe poi il tutto ad un ulteriore passaggio finanziario, che è quello della quotazione del club del Milan, prima a Hong Kong, dove diciamo le procedure sono un po' più semplici, si fa prima, e poi a Milano, quindi doppia quotazione per il Milan, il che permetterebbe a Berlusconi di ottenere una cifra già importante della cessione, come abbiamo detto, del 51 e poi di conservare questo 49 eventualmente da piazzare in borsa nel momento in cui la squadra viene, come dire, rivalutata, il brand viene rivalutato e quindi di poter fare ulteriormente incassi importanti. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, come va? Cruciani direbbe: Berlusconi vende il Milan ai comunisti. Cribio, questo Cribio. Dice lei, sarebbe altro. No, adesso vediamo, io il Pegliazzo è sempre un metro avanti, se non un chilometro avanti. Sì. La sensazione ormai da mesi è che, a differenza di altre volte, l'abbiamo capito dalle smentite che erano un po' meno smentite, dalle conferme che erano un po' più conferme, ci siano i margini perché questo possa succedere. Poi insomma, se sono comunisti in senso classico, tradizionale oppure no, sai, insomma. No, in un'epoca ormai post-ideologica, sì, però sentir parlare del Partito Popolare Cinese, che comunque entra nella spinge per l'affare, è una suggestione divertente. Ma me l'ha scritta anche un ascoltatore in tempo reale, praticamente via mail. Fa un po' impressione, ma così va il mondo. Marco, senti, ti avevo chiesto quanti soldi. Perché si è sentito parlare di un miliardo allora, e due, un miliardo e mezzo. Allora, qui entriamo un po' nel tecnico, come dice Allegri, e sì, quindi mi tengo leggero, quindi non preoccuparti. Sì. Allora, la valutazione del Milan totale è di 1,2, sì. un miliardo e due. Perdite comprese? Tolti 2,50 di debiti, andiamo sui 9,40. 960, e quindi per il 51 la cordata sborserà 500 milioni. Ah. Non so se sono stato chiaro. Perfetto, ho capito proprio io che di queste cose, normalmente queste cose mi mandano nel casino più totale. Fa lo sconto? Non tanto, però Piero. 51 sarebbe non tanto, però, perché sarebbe le perdite 480 gli da 20 milioni in più. Sì, però lasciando, come ho detto, i margini ad entrambi di rientrare con le quotazioni in Asia e a Milano, sulle quali diciamo stanno entrambi scommettendo. C'era anche un vecchio progetto di Toir di quotare l'Inter a Hong Kong o a Singapore. Lì purtroppo poi i risultati sportivi insomma hanno rallentato, hanno sconsigliato, un po' tutto, sì. però potrebbe essere effettivamente una nuova strada. In genere le quotazioni dei club non si sono rivelate fortunatissime, a parte qualche eccezione tipo il Borussia Dortmund che ha visto le sue azioni in questi ultimi 4 anni rivalutarsi di oltre 200%, però generalmente insomma i valori si sono molto molto deprezzati, però appunto potrebbe esserci una nuova epoca anche da questo punto di vista, soprattutto per un club come il Milan, che si rifà il look, si presenta come una squadra internazionale con un azionariato che poi dovremo vedere quale sarà, perché ripeto, i due pilastri che citavo bisogna capire in che misura sono, certo, da considerare i finanziatori. Anche perché poi, Marco, viene questo, mettiamo 500 milioni, ripiano le perdite, però quello che adesso interessa ai tifosi è poi dovrà mettere dei soldi per comprare i giocatori, per rifare la squadra, eccetera, eccetera. Questo sta fuori dal capitolo spesa. Percentuale di conclusione dell'affare? So che è una domanda difficile. Ma guarda, io ho avuto contatti questa mattina con l'entourage, insomma, di Mr. Touchball, così, e c'era, filtrava grandissimo ottimismo, insomma, loro, quindi mi sentirei di dire un 75-80% di possibilità che vada in porto, forse influenzato, ripeto, da questo ottimismo, però non c'erano ragioni oggettive per un rifiuto. Dopodiché siamo nel mondo degli affari, della finanza, e comunque siamo di fronte a Silvio Berlusconi, che di sorprese costellato la sua attività imprenditoriale e politica. Beh, 75% è tanta roba, Pierluigi, pronti per i voti di primavera alla mensa di San Siro. Veramente da uomo della strada, una volta, è che mi sembra una grande votazione, cioè mi sembra che gli insuccessi del Milan di questi ultimi anni, che pure sono stati fragorosi, però alla fine non abbiano condizionato più di tanto il valore della mercato. Società. Non so quali sono i valori delle altre grandi società italiane. Si può fare a parte che prendono al mercato, no? Poi alla fine se c'è uno che i soldi te li dà, il valore è quello. Guarda, considera questo, che l'Inter è stata venduta con una quotazione di 350 milioni. L'anno scorso, quando Allianz, il Milan vale tre volte l'Inter secondo il mercato? Probabilmente sì, queste sono le quotazioni. Questa roba qui, ma soprattutto Pier, scusami, ti aggiungo questo elemento, così poi fare un ragionamento più complessivo. L'anno scorso, quando Allianz ha comprato l'8,3% del Bayern Monaco, lo ha pagato circa 110 milioni, quindi valorizzando il Bayern Monaco più o meno 1,2-1,3 miliardi, con dentro uno stadio di proprietà e con dentro una società che produce utili ogni anno. Rispetto alla valutazione del Bayern Monaco, la valutazione del Milan non si distacca tanto, a parte i debiti, e quindi è chiaro che è tanta roba. Per quello, dicevo, filtra da tantissimo ottimismo da parte dell'entourage. Ma ragione, Marco, ha ragione Pardo, cioè tanta roba. Il Bayern Monaco produce utili, sappiamo di recente addirittura estinto il mutuo che aveva dopo aver costruito lo stadio, perché aveva i soldi e dunque li ha pagati. Produce utili, è forse il club meglio amministrato al mondo. Se il Milan vale gli stessi soldi, poi nei prossimi giorni ha ragione Pierluigi, cioè, no, ma la cosa impressionante, al di là del fatto che non è un mercato liquido, cioè non è che tutti i giorni la società di calcio vengono comprate e vendute al supermercato, quindi è ovvio che non è che c'è una facciamo ragionamenti tanto al chilo, però è tanto, tanti soldi, è uno che decide, quindi se decide che tra virgolette che impazzisce, se vuole a tutti i costi una cosa, chiaramente può fare il prezzo più alto. Però io credo che invece sia il riconoscimento di valori che sono intangibili, che fanno parte della storia dei successi internazionali di questa squadra, o forse anche di un certo tipo di mentalità e di apertura al mondo che altri club forse non hanno. Questo è valore per tentativi, perché è così. Se no, ci sta, perché cifra pensare che valga tre volte l'Inter, francamente non sembra, no, sì, posso dire, parlando fa ridere, no, come discorso. Posso dire che appunto nella valutazione generale, insomma, ha avuto un peso importante il fatto che il Milan, che il brand Milan sia comunque tra i più noti al mondo e noto non solo come un brand calcistico, ma come un brand calcistico vincente. Cioè il Milan di Silvio Berlusconi in particolare, al di là ora dei discorsi sugli egiziani dell'Al Ahly, è la squadra che ha vinto di più a livello internazionale in questi anni, al di là di quello che sta accadendo alla fine, contano anche al di là delle battute, palmarès conta altro che. Marco, al volo, poi tanto ci sentiamo nei prossimi giorni e sarai sorvegliato speciale, naturalmente. Volevo dire anche che il grande affare non l'ha fatto solo il Milan, in una battuta poi approfondiamo il discorso nei prossimi giorni, in questi giorni il grande affare non l'ha fatto solo il Milan, ma l'ha fatto anche Pozzo, perché l'abbiamo sentito domenica, abbiamo raccontato del Watford in Serie A, e l'Udinese a questo punto potrebbe non essere più il centro del villaggio di Pozzo. Assolutamente no, non lo sarà più, perché andando in Premier nell'ipotesi peggiore, cioè in caso in cui arrivasse ultimo, otterrebbe solo dai diritti TV 75 milioni e retrocedendo, aggiungo, si beccherebbe un paracadute che è di 70 milioni di euro. Quindi il giretto in Premier, il giretto di un anno, varrebbe per Watford 150 milioni, cioè quanto l'Udinese fattura al netto delle plusvalenze in 3 anni. Hai capito, ma adesso subito quanto arriva? Beh, subito arriva minimo 75, subito, e si salva prima di cominciare. Se arriva magari quart'ultima siamo sui 90 milioni, e consideriamo il fatto che tra un anno, cioè non questa stagione, l'altra, entrerà in vigore il nuovo contratto dei diritti TV in Premier, che prevede un ulteriore incremento del 70% dei ricavi, per cui si potrebbe arrivare a cifre, cioè, stratosferiche, nel senso che il Watford potrebbe tranquillamente, anzi sicuramente, prenderà più soldi della Juventus. Marco, grazie. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao. Già che stai andando a Udine, Pierluigi, dai Liban, anche il mio. Va bene, no, però questa è un'emergenza, questa del calcio inglese così forte rischia di diventare proprio pazzesco. Una specie di turbativa internazionale, per carità, assolutamente legittima. Poi ci domandano, ma questi arrivano qui, la neopromossa arriva qui, quanto viene, non lo so, Osvaldo, faccio un'ipotesi, la prima che mi è venuta in mente così, sì. 60, sì. 50, 30, eccoli, 30 subito, e uno dice, ma come? La neopromossa viene qui e fa shopping, abbiamo un telefono nel calcio italiano. È il motivo per il quale noi sentiamo sempre più spesso Belinazzo, non è soltanto perché è bravo, simpatico, perché questa chiaramente è la radio anche di Confindustria del Sole 24 Ore, quindi c'è una particolare attenzione a queste tematiche, ma anche perché il mondo del calcio, che ci piace a noi, sta andando lì, mi rendo conto sempre che sono argomenti poco romantici, poco simpatici. Però permettono di capire. Permettono di capire e poi permettono di competere, e poi competere ti dà emozioni, perché insomma, per dire, Fiorentina, Napoli e Juve, che giocheranno adesso una semifinale di Coppa Internazionale, vivranno delle emozioni forti, e queste emozioni le vivi soltanto se arrivi a quel punto della competizione, per cui... tanto bello il calcio di una volta sicuramente, però adesso bisogna competere. Io sono un po' preoccupato da questa forza del nuovo contratto televisivo in Inghilterra. Sì. Pier, ci sentiamo dopo, guarda a caso subito dopo la borsa, vedo già degli ascoltatori in linea, Emilio e Cesare, state lì, 800 24 00 24, torniamo subito. Cinesi, sì, un momento cinesi tutti appesi. Un momento epocale, altri 3 mesi, se sì, farei proprio un primo piano stretto, 3 mesi, sì. Ma prova tipo di che? Di cinesi? Cinesi tutti appesi, perché altri 3 mesi, non si può dire. Perché ho perchiato? Mica ho detto il nome di qualcuno. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Eccezionale. Convocati. E lo Stato ci deve aiutare a salvare il calcio, perché il calcio non è una disciplina di poco conto. Il calcio in questo momento è il paese del tempo libero, è il paese della domenica per il gioco, a differenza di tutto quello che li circonda. Oggi non si va più in piazza per ideologie politiche, si va in piazza per parlare di calcio, e si fanno guai in nome del calcio, che è l'ultimo ad averne le colpe. Questo era il Tavecchio di ieri sera, Tiki-Taka, presidente federale. Ovviamente non stava parlando della cessione del Milan, ma di un altro argomento che conosciamo bene e su cui stiamo arrivando con Emilio dalla provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno Emilio. Dica. Pericolosissimo ultra del Toro, di quelli con i bambini in una mano e i cubetti di porfido nell'altra, sfondatori di facciate di pullman. Sì. E niente, volevo quindi si sta autodenunciando? Sì, mi sto autodenunciando. Volevo sapere da Pardo se ha notizie del Torpedone, se è stirato nel frattempo, se si è ripreso, se è convalescente, così avere qualche notizia, perché ieri sera ho visto mezz'ora di corazzata Potionkin, mancava solo più la carrozzina che rotolava con l'occhio della madre, che nel caso poteva essere l'occhio di Marotta, e un parterre veramente imparziale, dove mancavano veramente giusto Vabbè, ma è meglio. Io, adesso le risponde Pardo, perché la domanda un attimo, la domanda è rivolta a lui, quindi adesso le risponde Pardo. Se vogliamo dire che al Pullman Juventus erano lì a battere le mani ed era qualcosa di scenografico, di coreografico e di goliardico, io non ci sto. No, allora devo rispondere su Tiki Taka di ieri sera. Sì, rispondi dire, per quanto ti è stato chiesto, Pierre. Il web è pieno anche di gente che dice l'esatto contrario. Come hai fatto a parlare Cairo che ha detto che, tanto per riassumere, che la Juve, voi tra i quali non accetta il verdetto sulla giustizia sportiva, in qualche modo si pone sul piano di non rispetto delle regole, quindi non ha detto eversiva, ma insomma diciamo non accettando quella cosa non dà il buon esempio, ai tifosi della Juve. C'era il Mezzano, che è il pericoloso ultra del Toro, che ha fatto quel pezzo, che era stato attaccato a Marotta. Poi certamente c'era anche Mughini, e poi devo dire casualmente, perché erano girati molto prima, c'erano Gabrini e Zambrotta. Gabrini fa l'ambasciatore dell'Expo, e Zambrotta è da una vita che doveva venire, ma c'era anche Telese, che insomma non è assolutamente uno juventino. C'era Di Bartolomei, il figlio di Agostino, che è romanista, ma c'era una poligonia di voci, francamente, sulla quale proprio quindi questa provocazione non l'accetto. E così come non mi sembra non geniale, insomma, parlare del torpedone. È chiaro che il torpedone è un simbolo soltanto di lamiera, è chiaro che la bomba carta poteva creare dei danni nettamente superiori, ma qui per l'ennesima volta io dico che secondo me un vero tifoso del Toro si indigna, un tifoso per bene del Toro si indigna nel vedere l'aggressione a un punto all'avversario, così come un tifoso della Juve si indigna nel vedere una bomba carta. Poi le conseguenze materiali potevano essere diverse, a parte è tutto da vedere, perché se si tira una pietra, questa in qualche modo buca il vetro e fa sbattere sulla testa di uno, gli può anche far male, ma insomma dobbiamo scendere su questo piano? No, io preferirei di no, posso dire. Come abbiamo chiesto ieri 100 volte e la demonizzazione di tutto questo è avvenuta da parte di tutti, senza se e senza ma. Non è più logico dire che quelli lì giocano tutti nella stessa squadra, che è la squadra di chi va a vedere la partita per far male, per farsi del male, per rischiare anche di farsi del male, che è una cosa terribile, perché l'idea che uno possa rinunciare, io sarò pavido, ma l'idea di poter rinunciare a una falange del dito mignolo perché per una partita di calcio mi sembra una stronzata colossale, ve lo dico. Ma per una partita di calcio possa valere una vostra falange, fatelo. Per la mia no. A prescindere, non in questi casi i colori valgono zero. Cioè, a me io trovo del tutto marginale alla fine capire, poi saranno indispensabili anche per i provvedimenti che verranno, eccetera, di che colore era la bomba carta, se granato bianconera a quanto pare. Bisogna appurare la verità, però i colori in questo caso c'entrano pochissimo, perché a parti invertite, fosse stato quello il pullman del Torino invece di quello della Juventus, io giuro avrei detto le stesse cose, ma credo anche Pardo. Cesare da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, non voglio affrontare il discorso Milan, gli Mr. B and Company e anche nemmeno il fatto della violenza degli stadi, perché è un discorso che porterebbe inevitabilmente a parlare di politica e non è mia intenzione, neanche la trasmissione che lo permette. La cosa che vorrei solamente dire, visto che noi siamo un paese che è spettacolare, sempre nello stare in dito e stupirsi di alcuni avvenimenti tragici, negativi, senza mai fare niente, perché da noi siamo solo riusciti a svuotare gli stadi senza risolvere nessun problema. Io volevo proporre questo, perlomeno facciamo due cose, ad esempio vietiamo e perseguiamo ammonizioni, contravvenzioni, decidiamo cosa fare, i giocatori di una squadra non vanno più sotto la curva a chiedere e a discutere con i tifosi, a chiedere pietà o a dare le mani ai tifosi. Ma delle indicazioni in questo senso già ci sono. Poi? Ecco, questa è la prima cosa che per me deve essere fatta. E la seconda cosa che deve essere fatta è che noi non possiamo accettare, così ridendoci su, alcuni fatti, come per esempio quello dell'anno scorso, famoso di Bergamo, dove per festeggiare l'inizio del campionato il famoso carromato dell'Atalanta, no? Che distrugge due macchine con il cuore del Roma e del Brescia, è un bambino piccolo che dà ai carsi la macchina del Brescia. No, ma guarda, su questo non lo accettiamo affatto, non lo accettiamo. Ne abbiamo discusso a lungo sul primo tema. Io sono d'accordissimo con lei, l'ha detto anche, se lo chiederà la federazione, Tavecchio chiederà che venga proibito fisicamente ai giocatori di andare sotto la curva in segno, diciamo così, di umiliazione o a fare delle mediazioni. Questo va benissimo, a patto però che poi ci sia magari il dirigente della Digos che per quieto vivere gli dice andate, perché no, certo, chiaro. Come ha spiegato benissimo Morgan De Santis in occasione del famoso Roma-Fiorentina, non è che lui ci avesse tutta questa voglia di andare a sottoporsi all'umiliazione da parte dei suoi tifosi, però gli è stato consigliato come segno di responsabilità. E in quella partita lì, ricorderete, poi può sembrare folle, può sembrare patologico, lo è probabilmente patologico, ma quel chiarimento lì è stato importante per evitare guai, nel senso che i tifosi della Roma erano arrabbiatissimi per come stava andando la squadra e sono tornati a casa pacificamente. Sì, lo so, però bisogna trovare un altro modo, Un altro modo, Carlo, è sempre lo stesso. L'altro modo è identificare chi delinque, punto. Certo, identificare chi delinque, punire appunto quelli e salvare le persone per bene che si vedono private di diritti, perché comunque è un diritto andare allo stadio in sicurezza, è un diritto non avere la curva chiusa per delle cose che hanno commesso degli altri, una minoranza. Tu pensa adesso il caso della Juve, la Juve è fuori casa. La Juve l'altro giorno era fuori casa, per cui se ci saranno provvedimenti, chiusura dello stadio, eccetera, eccetera, chiusura della curva, uno che non era lì, un tifoso della Juve che non era lì e che è abbonato allo Juventus Stadium perché ha pagato l'abbonamento. Sì, sicuro. Si vede privato di un suo diritto contrattuale, è chiaro. Si vede privato di un diritto sancito da un contratto. Uno Stato che non riesce a fare pulizia vera e non riesce a colpire in maniera precisa, scientifica, chirurgica, chi commette dei fatti delinquenziali, che fa queste cose, chiudiamo la curva e poi una volta dopo che chiusa la curva risuccede, l'hanno fatto l'anno scorso per i cori sul Vesuvio e la partita dopo rivelavano i cori sul Vesuvio, alla fine si sono rassegnati, hanno detto sapete che c'è, non la facciamo sta cosa, è tanto sì niente. Ma siamo sempre al discorso che abbiamo fatto mille volte, sono anche strumenti di pressione che vengono consegnati ai professionisti del tifo. Guarda, abbiamo il traffico come sai, subito dopo c'è già Guido Vacciago in linea che oggi sul blog di Tutto Sport ha scritto violenti, la guerra che nessuno vuole vincere, tra poco ci spiega cosa c'è scritto. Ci mancherebbe altro che ci fossero sciagurati più cattivi e meno cattivi, gli sciagurati, i delinquenti, i teppisti e i farabutti sono un'unica razza. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Tutti convocati. Ciao Guido Vacciago di Tutto Sport. Ciao e buongiorno a tutti. Hai sentito quello che stavamo dicendo? Non so se hai sentito anche gli interventi Pardo, precedenti. Pardo c'ha ragione, Pardo ha detto tutto lui. Io posso anche salutarvi, possiamo parlare del tempo. Sono d'accordo con lui, c'ha ragione, è questo il concetto. Io credo che sia una questione di volontà, non stiamo parlando, ci sono purtroppo delle cose molto più serie nel mondo e anche molto più gravi della bomba carta di Torino. Non stiamo parlando della fusione fredda, qua è una cosa che non è impossibile da combattere, è facilissimo da combattere, basta averne la volontà. Io ho l'impressione che non ci sia la volontà, perché identificare i violenti non è come andare a cercare l'oro nel Klondike, cioè voglio dire, è una cosa semplice, bastano delle telecamere, costano 100.000 euro le telecamere che si usano negli stadi seri o nei servizi di sicurezza seri e permettono di identificare con certezza i delinquenti. Il problema è che una volta identificati bisognerebbe anche pinzarli e metterli e punirli, metterli in galera se è il caso. Tu hai scritto una cosa che condivido. Parliamo molto spesso di leggi che non ci sono, eccetera, eccetera. In realtà le leggi ci sono, cioè sono figure previste dal codice penale, ma meno male, sì, non è, ma che leggi speciali, appunto dico, ma quando uno attenta all'incolumità di una persona, è una roba che per fortuna il nostro codice penale prevede e punisce. Basta applicarlo, il problema è la volontà di non applicarlo, è il fatto che comunque questi personaggi riescano a farla sempre franca, che a volte le stesse forze dell'ordine medino con loro, trattino con loro, Il fatto che le società, magari ci sono quelle benemeriti che collaborano, ma la stragrande maggioranza delle società non collabora all'identificazione, il fatto che i calciatori, non tutti per carità, ma la stragrande maggioranza è connivente con loro, e allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, non puoi chiedere alle società, scusami Guido, non puoi chiedere alle società tra virgolette di fare la spia, cioè non lo puoi fare con questo stato qui, non lo puoi fare, lo puoi fare in sistema come quello inglese, che è un sistema dove le regole sono chiarissime, la certezza del diritto e delle pene è assoluta, e allora chiaramente c'è una cultura talmente forte per cui il Chelsea dice: io quel tifoso lì che fa il razzista in metropolitana a Parigi non lo voglio, perché non mi interessa, perché mi rovina l'immagine del club e non me ne frega niente, sono 100 migliori di tifosi rispetto a quello lì. Ma questa cosa qui la puoi fare con uno Stato forte, se lo Stato è forte e riesce a risolvere il problema, poi le società collaboreranno. In questo momento le società non hanno la forza, e ti ripeto, io non mi sento di biasimarle più di tanto, perché poi hanno i tifosi tutti i giorni, poi sapete, l'ho detto anche ieri sera, per me c'è sempre una componente del tifo che, cioè, non bisogna generalizzare, perché secondo me le curve fanno anche, cioè quando una curva è chiusa manca una squadra di calcio. Roma-Atalanta, che è il caso più recente, la curva sud è mancata alla Roma, alla squadra in campo, avrebbe dato sicuramente una spinta, avrebbe dato sicuramente una mano. Quindi il calcio senza tifosi non esiste, il calcio senza giornalisti potrebbe anche esistere, sarebbe un po' meno figo, perché non lo vedremmo in televisione, non vedremmo grandi partite internazionali, non ci ciberemo, però potrebbe anche esistere. Senza tifosi non potrebbe esistere il calcio, quindi questa è un po' la discussione. E è chiaro che quelli lì pesano, perché ce l'hai tutti i giorni al cancello a Milanello, alla Piano. Ma sono proprio quelli lì, no? Quelli... Non sono tutti quelli lì, sono una buona parte. Le società dovrebbero poter alzare le braccia e dire: noi non accettiamo niente. Questo non è uno spazio franco, questo è un luogo pubblico. E in un luogo pubblico, se tu tiri una bomba carta, se tu assalti un pullman, qualcosa ti succede. Per molti di questi la curva è il l'ufficio di lavoro, quindi esatto Pier, io ti voglio dire tu hai ragione, nella classifica delle responsabilità io non metto le società al primo posto, perché è indubbio che chiamiamo lo Stato, inteso come ciò che dovrebbe garantire l'ordine pubblico, è indubbiamente più responsabile delle società, e che sono d'accordo con te che non vanno accusate, perché poi c'è un vivere quotidianamente la realtà e non bisogna solo fare discorsi teorici. Però è anche vero che alcune società non si limitano a non denunciare, alcune società aiutano, certo, assolutamente. Un conto è l'omertà, un conto è la collaborazionismo, perché il problema è che alcune società forniscono biglietti, cioè ecco. Così come alcuni politici, diciamo che negli anni hanno preferito non guardare, perché per due motivi fondamentali. Primo, perché lo sappiamo bene, adesso forse un po' meno rispetto a prima, ma soprattutto negli anni 90 le curve di destra o di sinistra, perché c'erano dei posti nelle grandi città metropolitane dove si era spostati molto a destra, ma penso per esempio a tutta una serie di città del centro Italia dove invece ci sono curve fortemente radicate a sinistra, e quindi poteva diventare anche un luogo diciamo di influenza politica per i politici locali. Per un motivo molto semplice, è quello che ha detto Tavecchio ieri, e cioè che questa conflittualità che esiste, che è enorme, che fa parte della società, perché quando hai 20 anni o 30 anni può darsi pure che ti rode, no? Può darsi pure che tu abbia dell'aggressività addosso che devi esprimere. Insomma, lo stadio tante volte diventa uno sfogatoio, e questo sfogatoio è lontano dalle piazze, dai luoghi della politica, dai luoghi dove potenzialmente è più pericoloso. Quindi questa conflittualità forte che esiste nella società, perché purtroppo la città ideale, la città della gioia di Campanella, non esiste, viviamo in un mondo dove invece c'è tanta gente che soffre, che ha problemi, o tanta gente che semplicemente è aggressiva e violenta e non dovrebbe esserlo, e lo stadio diventa un luogo che ha lo sfogatoio di tutta una serie di problemi. Stai lì, resisti 90 minuti, ti turi il naso, cerchi di evitare i guai seri e fai così. Questo è quello che è successo in Italia, secondo me, negli ultimi 20 anni o 30 anni. In Inghilterra, dove sono passati da tragedie ben più profonde, perché la Isel è stata una pagina atroce e Hillsborough è stata una pagina altrettanto atroce, e dopo Hillsborough c'è stata una signora che si chiama Margaret Thatcher, che ha deciso di risolvere il problema, perché ha deciso, ma non perché sia una santa, anche perché non lo è, no, perché ha deciso, ha deciso che non andava più bene così, che era diventato popolare per lei e per la sua ricerca del consenso risolvere quel problema, che la situazione non era sostenibile, che è quello che io spero che succeda. Quindi, spero che succeda. Quindi tu dici che nessuno, quindi tu dici che come scrive Guido Baciago, in fondo risolvere questo problema non importa tantissimo a nessuno, fa piacere a nessuno fa piacere vedere le scene di violenza, però non è una non è una priorità, insomma, assoluta. Come dicevamo ieri, se questo paese è riuscito a battere il terrorismo, a risolvere dei problemi ben più seri, sembra assurdo, no, che non riesca ad avere la stessa forza. Questa forza non ce l'ha, perché poi alla fine, secondo me, sarà derubricato a un problema importante, a un problema marginale, a un problema marginale. Guido, Tavecchio, te lo scuro, l'ultima cosa, ti dice questa cosa: siamo soli. Non so sbagliato che sia, poi ci sarà qualcuno che è connivente, ma in questo momento mi pare che la richiesta sia questa, sia aiutateci, perché non sappiamo come fare, e non è che la Federcalcio sta insultata in curva o gli investigatori privati. Sì, sì, sentiamo, siamo parte lesa, non sappiamo come difenderci da soli. Guido? Sì, è giusto così. Non, io credo che quelle domande che pongo alla fine del mio piccolo post di questa mattina siano quelle. Cioè, perché l'impunità è il cancro che erode la soluzione di questo problema. Finché esiste l'impunità, questo problema non verrà risolto. E purtroppo fino adesso le soluzioni che sono state adottate sono andate a danneggiare i tifosi civili, quelli che adesso per comprare un biglietto devono fare una gogna. Ma quindi sei dell'idea che non alla fine, in fondo, come dice Pardo, non interessi a nessuno? Non lo so, magari verrà a un certo punto un politico che per interessi, come giustamente ha ricostruito Pierre, per interessi di bottega deve lanciare una campagna popolare, decide che la risoluzione del problema della violenza negli stadi, la violenza nel calcio, è un item che può in qualche modo risolvergli o portargli consenso, e quindi magari fa quelle due o tre cosettine, dà quei due o tre input alle strutture e alla magistratura affinché questo problema venga risolto. Secondo me è addirittura più semplice rispetto all'Inghilterra, dove c'era un discorso di violenza molto più radicato. Io tutto sommato credo che noi viviamo un momento storico che è ben più leggero rispetto a quello dell'Inghilterra degli anni Ottanta, dove c'erano più leggero rispetto a quello che avevamo noi negli anni 80 e 90. Esattamente. È una roba che va estirpata, perché non possiamo accontentarci di dire si sta meglio degli anni 80, perché dobbiamo puntare al fatto che lo stadio sia imposto come il cinematografo, cioè voglio dire, tu vai, godi il tuo spettacolo e poi te ne torni a casa, non che dici: oh, sono tornato a casa solo con una bruciatura, andata di culo, sì. Cioè, no, non va bene questo, perché poi alla fine dice: sì, ma in fondo erano solo codici verdi quelli dell'Olimpico, ma porca miseria, ma non deve esserci neanche un codice, cioè io vado allo stadio e torno esattamente come c'ero andato, magari mi è cambiato l'umore, ma solo va quello. Bene, solo quello. Grazie Guido, alla prossima. Grazie a te, ciao. Ciao Guido Baciago, Pierluigi, andiamo, sentiamo GR, poi torniamo insieme, tu non stai con noi ancora un po', andiamo avanti a parlare con gli ascoltatori subito dopo, e poi parliamo anche dell'Inter che sta andando a vedere, ci sarà anche Sorrentino che parlerà della stessa cosa, perché per l'Inter è una serata importante. 800 24 00 24, se volete intervenire siamo qui. Tanto più i tifosi abbastanza furibondi cominciano a far esplodere qualche bombone, tanto per riscaldare la serata. Tutti convocati. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Che dire, arieccici. Convocati. Torniamo. 800 24 00 24, numero verde Pardo in viaggio verso Udine per Udinese Inter di stasera, e tra poco ne parliamo. Giuseppe da Torino, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Volevo prima di tutto condannare tutti i fatti che sono successi ieri allo Stadio Olimpico di Torino. Sì, domenica, io volevo sì. farvi notare tre cose. La prima, non è scoppiata soltanto una bomba carta, ma ne sono scoppiate tre nel settore occupato dai settori del Torino. Una durante l'inno del Torino, una intorno al quinto minuto e una intorno al novantesimo. Quella che ha danneggiato è solo stata quella durante l'inno, ma comunque le bombe sono state tre. Inoltre c'è stato uno striscione molto polemico sul 25 aprile, scritto con caratteri fascisti, che di fatto cancellava il 25 dalla parola 25 aprile, lasciando solo aprile. Discutibile anche questo, per carità. La terza cosa, volevo chiedere un vostro opinione sulla fuga di notizie di ieri mattina, che di fatto ha solo esasperato gli animi, quella delle dichiarazioni del PD Padalino, del PM Padalino. Alla fine non ha portato a nulla, dato che la prima ricostruzione era quella corretta. Sì, e però Giuseppe, il discorso, il discorso è che qui non si tratta di esasperare gli animi, questo o quell'altro, a seconda del tifo che si porta addosso. Si tratta di ricostruire la verità dei fatti, perché ripeto, no, però ha ragione che cosa? Perché... su cosa? No, sul fatto che il cioè io sulle, poi le bombe carta non so se sono state una, due o tre. Pierluigi, tu eri allo stadio, non ne ho idea. Io facevo la telecronaca e un po' per dovere, un po' per passione, mi piace un po' di più guardare Quagliarella e Pirlo, con tutto rispetto. Detto questo, è chiaro che i primi minuti sono stati minuti vissuti con la visione periferica, perché c'era perché lì c'era casino. Poi chiaramente noi abbiamo la responsabilità di non un po' perché non vediamo e non sappiamo, chiaramente, di non mettere in allarme le persone, certo, che sono a casa, come è giusto, di non raccontare cose senza fondamento, chiaramente. Massima attenzione. Però è chiaro che nei primi minuti, ma come succede spesso, non è che è successo soltanto a Torino ieri. Purtroppo nei primi minuti c'era, per esempio, il classico lancio del fumogeno dalla parte all'altra, che adesso, per carità, non è una bomba carta, però comunque è una cosa che non è particolarmente piacevole, no? Quindi di cose che non funzionavano se ne sono viste tante all'interno di una partita, lo ripeto, bellissima, perché veramente, insomma, poi diventa retorico, ma le coreografie erano bellissime, lo stadio, c'era un'atmosfera pazzesca, c'era il Torino giustamente entusiasti per una cosa storica, la Juve pure, insomma, i suoi tifosi, si stava bene, io sono contento di aver raccontato una partita del genere in qualche modo anche storica. Però non si può tralasciare questo. Ma sul tu balletto, dicevi, ha ragione cosa, ascoltatore? Sul balletto delle cose, perché allora, in un mondo ideale, dopo una cosa come quella di ieri, nessuno veste più una sciarpa, no? Facciamo il discorso che abbiamo fatto prima, cioè nessuno gliene frega niente di sapere se a portare la bomba allo stadio sia stato il tifoso di una squadra o dell'altra, perché non sono tifosi, sono violenti, per cui non me ne frega niente di saperlo. Sì, però appunto, siccome poi ci sono questi codicilli, la chiusura dello stadio è un motivo ulteriore, secondo me, per essere contro questo tipo di responsabilità oggettiva. Il tariffario a Roma, quando c'è stata due settimane fa la chiusura della curva sud, hanno detto, e secondo me anche con qualche ragione, cioè nelle radio montava il pensiero che c'era stata una disparità di trattamento rispetto ad altre volte, perché in occasione degli striscioni sulla Isel, su Superga, in passato non c'era stata la squalifica della curva. Faglielo spiegare al tifoso che in quel momento lì si perde la partita, c'ha lo stadio chiuso, questo discorso qui. Per cui ieri, quando c'è stato quel ribaltone apparente intorno all'ora di pranzo, i social erano pieni di tifosi della Juve che dicevano: l'avete visto, adesso cosa si inventeranno per dire? No, ma stiamo appurando, ma infatti Tosella ha sospeso il giudizio. Onestamente, dare quella notizia lì, secondo me, ha contribuito alla confusione, fermo restando che dovremmo essere, e invito tutti a essere più maturi, è veramente un dettaglio sapere se quella persona lì con la bomba carta fosse tifoso della Juve o del Torino. Semplicemente era uno che allo stadio non ci dovrebbe stare, punto, perché non serve né alla Juve e né al Torino, secondo me. Certo. Serve se si comporta bene, certo, va in trasferta, sostiene la sua squadra, fa le coreografie, canta come pubblico della curva, soprattutto anche quello della tribuna, ma soprattutto quello della curva, sa fare, è un valore enorme. Ma infatti quello enorme che ti dicono, cioè gli animi non devono essere esasperati dalla ricostruzione dei fatti, se è stato così, questo o quel. Carlo, vabbè, se tu vai sui social, lo vedi che è la vera battaglia culturale è questa, non potrà mai essere noi contro loro, la mia curva è meno violenta della tua, ma che discorso è? È più grave il pullman o è più grave la bomba carta? Già che qualcuno lo scrive. È grave tutto, sì. Sono reati, cioè sono reati, è inutile stare. Cioè, c'è un tariffario per i reati e lo prevede il codice penale. Poi non, chiaramente non siamo noi a dover pesare l'immondizia, no? Spetta ai togati, direi. Allora, parliamo un po' di Inter, che è meglio, va. Parliamo un po' di Inter. Diciamo a Udine facilmente. Per vincere a Udine bisogna fare una grande partita, perché comunque l'Udinese, vista contro il Mila, è una squadra in netta ripresa, anche se ha avuto delle difficoltà, ha giocatori bravi, molto bravi, è un allenatore che conosce benissimo l'Inter, quindi non è una partita così scontata. Non cambia un risultato, penso che sia sempre negativo, perché io pensavo di arrivare nei primi tre, quindi è negativo, non cambiamo se vinciamo uno, due, tre partite. Quindi, però sapevo allo stesso tempo, nonostante avessi quell'obiettivo lì, che sarebbe stata una cosa abbastanza difficile, però credo che uno si debba sempre, insomma, sempre cercare di prendere l'obiettivo massimo e non il minimo, e quindi soprattutto perché è l'Inter. È arrivato anche Andrea Sorrentino, che è sulla stessa strada di Pardo, non so se vi siete incontrati all'autogrill, Andrea. No, io l'ho sicuramente anticipato. Buongiorno a tutti. L'hai anticipato? Già... Sì, questo vediamo. Dove sei? A Udine? Sì, ho già pranzato a Udine, quindi sei in ritardo. La classica trasferta, la carta stampata, sì, la mattina, cappuccino, 9:30, pezzettino, vabbè. Sono lussi, certo, diciamolo. No, intanto sì. No, stavo contando la classifica, stavo dando un'occhiata alla classifica a proposito di carta che canta e non di bombe carta. Se l'Inter vince stasera, so che è un ologramma, ma è settima. Poi aspettiamo domani, poi aspettiamo oggi. Almeno uno dall'Europa League. Per l'esattezza è la settima, anche sabato sera, subito dopo aver battuto la Roma. Poi Genoa e Torino hanno vinto e le sono tornate davanti. In sostanza l'Inter è a 5 punti dal quinto posto, con 3 squadre in mezzo, anzi 4 squadre da recuperare, che sono Sampdoria, Fiorentina, Genoa e Torino. Da stasera parte questa volata, che secondo me è un po' difficile per l'Inter, perché poi in queste 6 partite avrà anche Lazio e Juventus, oltre allo scontro diretto col Genoa, quindi è una rincorsa un po' così col fiatone, che secondo me sarà molto difficile che possa andare a compimento. Però l'Inter nelle ultime 2-3 settimane, secondo me, qualche segnale positivo l'ha dato. Il derby, secondo me, poteva vincerlo tranquillamente, anzi avrebbe meritato di vincerlo. Con la Roma ha meritato la vittoria, se non altro per quell'ultimo quarto d'ora molto coraggioso. Quindi è una squadra che piano piano anche Mancini sta cominciando a capire, perché lui ha faticato parecchio, ha sbagliato qualche valutazione, secondo me, ma non solo secondo me. Ad esempio, dovendo giocare con Rombo, Hernanes è il trequartista di questa squadra, non poteva che essere lui, non lo è Shaqiri, perché Shaqiri non può essere fisicamente un trequartista dal mio punto di vista, perché in quella zona del campo bisogna giocare con atleti di alte caratteristiche fisiche. Non so, ad esempio il migliore del mondo in quel ruolo non a caso è Thomas Müller, per dire. Quindi ecco, anche Mancini ha fatto un po' di fatica a decifrare questa Inter, piano piano, un colpo di qua, un colpo di là, la sta tirando su, e adesso è una squadra che ha una sua competitività, anche perché è tornato Palacio, eccetera, eccetera. Ma ti sento poco convinto di quello che dico? No, io sto ascoltando con attenzione. Io sono convintissimo. Volevo meglio tardi che mai, aver capito l'Inter adesso, meglio tardi che mai. Però volevo chiedere anche a Pardo se secondo lui c'è stato, poi, ovviamente a largo discorso, anche a Sorrentino, se c'è stato un momento della svolta, o Mancino una mattina si è svegliato e ha detto: ostrega, ho capito, adesso mi è tutto chiaro. Beh, ci sono dei segnali che sembrano veramente molto incoraggianti, nel senso che mentre la svolta, cioè in realtà c'è un Inter diversa delle ultime 3 partite, con Hernanes appunto trequartista, con dei sacrifici, Shaqiri chiaramente è molto penalizzato in questo momento, con Kovacic, come ha spiegato ieri Mancini, può diventare eventualmente un futuro Pirlo, può avere un destino alla Pirlo davanti alla difesa, ma abbiamo capito che più avanti non gli piace, perché preferisce Hernanes. e sicuramente nelle ultime tre partite l'Inter ha giocato molto bene anche nel derby, quindi fa molto onore a Mancini il fatto di quella cosa che ha detto, no? Che comunque andrà a finire, non sarà un successo, perché lui pensava di arrivare fra le prime tre, perché spesso poi insomma le dichiarazioni cambiano durante la stagione a seconda della classifica reale, invece in questo è stato molto onesto, insomma lui si aspettava cose diverse, non è riuscito a farle, però questo finale sembra incoraggiante. Quanto poi alla, avete letto il pezzo sulla Gazzetta, quanto poi alla convenienza o meno di andare in Europa League, ci sono varie considerazioni da fare, no, nel senso che c'è il discorso del UEFA, c'è il discorso della tournée asiatica, c'è il fatto comunque che giocare con due obiettivi in una stagione di rilancio potrebbe essere utile. Detto questo, io fossi Mancini, potendo scegliere, ci andrei tutta la vita, ma no? Chiaro, ma chiaro. Attenzione però, c'è Europa League, Europa League. Se arrivi quinto, fai Europa League dal turno normale, d'accordo? Se arrivi sesto, settimo, poi bisogna vedere come arrivano poi le squadre, non sappiamo ancora la griglia europea del prossimo anno, però se devi fare un'Europa League iniziando i preliminari il 29 luglio, allora io dico è meglio non farla, perché è una cosa che non porta a nulla e che anzi ti costringe a anticipare la preparazione. Tutte le squadre che hanno disputato l'Europa League da quel preliminare lì negli ultimi anni non sono arrivate a marzo con le gambe in croce, non sono più andate. Ma il Torino quest'anno no, il Torino quest'anno no, però in generale io ti dico la verità, è un ragionamento che mi fa schifo, per cui anche se c'è un fondo di verità in quello che dice Sorrentino, che ho detto anch'io qualche istante fa, nel momento in cui lo dico lo nego, perché è vero, però non si può vivere così, cioè non si può vivere ragazzi, con l'idea, non si può fare questa vita. Che faccio? Vado a cena con Claudia Schiffer? No, perché sennò magari mi dà buca. Ecco, no, vado a cena con Claudia Schiffer e poi se andrà male. Non so come dirti. Mi sembra anche poi in una stagione, fra l'altro, che comincia praticamente a Ferragosto, perché comunque sarà un inizio anticipato della stagione 2015-2016, non mi sembra tanto quello il problema, mi sembra più un discorso di fair play per UEFA. Cioè, sappiamo bene che l'Inter viaggia su questa linea sottile, non è l'unica società a viaggiare su questa linea sottile delle sanzioni, e sappiamo che una mancata partecipazione alle competizioni europee le darebbe qualche libertà in più. Andrea? Esatto, io sono convinto che l'Inter, se nelle ultime giornate lambirà la possibilità di qualificarsi per l'Europa League dovendo fare il preliminare, non si qualificherà per l'Europa League dovendo fare il preliminare, e di questo sono convintissimo. Adesso loro giocheranno le prossime 2-3 partite cercando di dare il massimo, e poi capiranno fra 2 o 3 partite che a quale destino stanno andando incontro. Senti, posso chiederti un'ultima cosa brutale, un po' brutale? Sì. Ma a te Kovacic, prima si parla di Kovacic, ma a te piace? A me non fa impazzire adesso stiamo a parlare dell'età, è giovanissimo, ha talento, ma a me sembra un giocatore alla fine della fiera, è un giocatore che ha ancora molti molti problemi e molti lati oscuri. Il primo tra tutti, che è quello più evidente, che nel calcio moderno non ti puoi permettere, è che tocca troppe volte il pallone, che è un difetto non da poco, e in più non ha ancora una maturità tattica. Bisogna dire che, poveraccio, io poi quando dico questo penso anche che ha giocato gli ultimi 2 anni nella peggiore Inter degli ultimi 30 anni. Certo, sì, ci sono attenuanti, c'è l'età, c'è un sacco di cose. Ed è anche uno di quei 4-5 giocatori ai quali rappresentano il patrimonio dell'Inter oggi. Ma infatti è per questo che l'Inter a me non fa impazzire, però voglio dire. È per questo che l'Inter ci sta provando in tutte le maniere, no? A farlo giocare. Va bene, a provarsi, ma ovviamente neanche tanto sta provando, devo dire la verità, perché ha trovato un altro equilibrio. Però insomma, Kovacic potrebbe anche diventare messo in cambio. Insomma, qualche settimana fa c'era parlato di interesse di Barcellona, Braida, una valutazione anche piuttosto importante, non lo so. Kovacic, per quello che abbiamo visto, per quello che siamo riusciti a capire, potrebbe giocare in un centrocampo come quello del Barcellona adesso, dove ci sono Rakitic e Iniesta ai fianchi di un perno centrale, di un Busquets. Ecco, lui potrebbe fare la mezzala in un Barcellona di questi punti, in un 4-3-3, ecco, perché non è un trequartista, perché non può esserlo, non è un regista. Al massimo, per quello che mi è parso di capire, può essere una buona mezzala, però inserito in un contesto di un certo tipo può dare delle cose. Inserito in un contesto come quello un po' deprimente dell'ultima Inter, fatica moltissimo anche lui. Comunque la differenza di queste ultime partite è Hernán. Hernán è un giocatore oltre agli altri. La domanda era perché non giocava mai prima. Il domandone era perché prima stava sempre a guardare. Cioè, quando è arrivato Mancini ha subito detto: ok, Guarin lo promuovo, Hernanes non voglio vedere, al momento non ti vedo. Quindi... perché Mancini era reduce dal viaggio verso Itaca durato 6 anni, in cui aveva un po' smarrito la conoscenza del calcio italiano, è arrivato con delle idee che però poi non corrispondevano ai fatti. Molto zen. Ma ricordate in certi momenti Leonardo. Sì. Ma non è mica denigratorio, nel senso che lo stesso tipo di atteggiamento, di grande calma, di grande serenità, che poi è anche un valore da trasferire ai giocatori. Io ho parlato con questo dell'Inter e anche con un po' di dirigenti dell'Inter, insomma, di Mancini subito, forse anche perché c'è una grande empatia, grande tranquillità, no? Sì, fino poi alle grande, e aggiungiamo pure grande credito. Ragazzi, vi saluto, buona partita. Ciao, Sorrentino e Pardo. Massimo Mantova, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Intanto grazie per la telefonata. Volevo fare una domanda. La squadra che vince la Coppa UEFA quest'anno va in Champions? La squadra che vince la Coppa UEFA, cioè l'Europa League quest'anno, va in Champions. Allora in questo caso, se dovesse essere Napoli o Fiorentina, ruba il posto alla terza classificata? Vanno quattro squadre, quindi avremo tutto da guadagnarci, ed è per questo che facciamo un gran tifo per una finale tutta italiana a Varsavia. Comunque è chiaro, in quel caso avremmo quattro squadre in Champions League. Vi faccio sentire un altro paio di voci, sempre Allegre, Garcia, prepartita, hanno parlato oggi. Partiamo dal capo classifica, Massimiliano Allegri. Il campionato, io ho detto ieri non abbiamo perso un punto, ma ne abbiamo guadagnati due, perché se prima di ieri ci mancavano due partite a vincere lo scudetto, ora al momento ci mancano 4 punti. Tutte le decisioni sono mie, ok? Io parlo anche con i miei allenatori, ovviamente, perché siamo un gruppo, ma tutte le decisioni sul gruppo sono mie. Possiamo frustrare i giocatori, possiamo farle dormire nudi durante due notti, e a che serve? Perché voi prendete un esempio che funziona, io posso prendere 10 esempi che funzionano. Toni un po' diversi, umori un po' diversi tra Allegri e Garcia. Abbiamo 5 minuti per parlare di ciclismo, cosa che voglio fare da giorni. Pier Augusto Stasi, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao. Mi fa un rapido riassunto della primavera italiana? Il riassunto non è stata coloratissimo, non siamo andati benissimo, lo sapevamo, anzi in realtà abbiamo anche ottenuto una bellissima vittoria alla Gran Wevelgem con Luca Paoni, sì. Un giovanotto di 38 anni che comunque ci ha fatto riassaporare un pochino il gusto di vincere una classica del nord, anche se non è una classica monumento, perché la Gran Wevelgem fa parte di quella nutrita schiera di corse importanti, ma non che possono non mito, cambiarti la vita, certo. Ma in ogni caso siamo riusciti a festeggiare. Però invece nei Fiandre, nella Roubaix, nella Liegi, ahimè, purtroppo abbiamo dovuto chinare come troppo spesso negli ultimi anni. E siamo tornati con le ossa rotte. No, viene il sospetto che non abbiamo corridori in questo momento tagliati per quelle corse. No, è così. Purtroppo il cambio generazionale è in corso. Abbiamo anche dei ragazzi interessanti, forse alcuni anche un pochino supervalutati, devo dire, perché guarda, nel ciclismo c'è una regola molto banale, ma vale per tutti gli sport, nel calcio, nel nuoto, nel tennis. Anche quando si ha 20 anni si vede chiaramente chi ha talento, il talento è vero e chi no. Sì, sono d'accordo. Nel ciclismo, ad esempio, c'è un francese che si chiama Alain Philippe. C'ha 22 anni e ha fatto 7° all'Amstel Gold Race, 2° alla Freccia Vallone e 2° domenica alla Liegi Bastogliese. Ha fatto una sua carriera dilettantistica neanche tanto esasperata, è passato di categoria e nella massima serie corre nella Epics di Mark Cavendish e di Tom Bonen, e non mi soffre il timore referenziale per nessuno, coraggiato col campione del mondo Kwiatkowski, e quando hai le gambe resti coi più forti. Noi siamo lì che stiamo a pensare a tutta, no, però dovremmo farlo maturare, facciamo qualche garettina interlocutoria con il tempo e con la paglia maturano le nespole, ma non è detto che maturino i corridori. Per finire in un secondo, Nibali non è uscito benissimo dalla campagna del nord, c'è da preoccuparsi o no? No, perché la storia ci insegna che Vincenzo ha in testa solo e soltanto un grande obiettivo, che è quello dichiarato all'inizio della stagione, che è il Tour de France. Certo, ci aspettavamo qualcosina di più, qualcosina di meglio, soprattutto alla Freccia e alla Liegi. Però adesso lui da oggi comincia a correre in Romandia, poi staccherà un pochettino, quindi all'80% di condizione, per poi presentarsi alla Tour de France a luglio. L'anno scorso ricordiamo tutti che la prima gara vinta da Nibali è stata esattamente a fine giugno. Ah, ma ce lo ricordiamo bene, abbiamo parlato di quella lettera, di quel richiamo della Astana per scarso rendimento, abbiamo parlato di questi tempi un mese fa, cioè era all'inizio di aprile, la Astana inviò una lettera, un'email durissima a tutti i corridori, compreso Nibali, per scarso rendimento. Quindi richiamandoli al loro senso di responsabilità. Poi se la sono dovuti rimangiare come il nemico di Paperone si mangiava il cappello. Bravo, esattamente così. Ciao Pier Augusto, grazie, a prestissimo. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Ciao Pier Augusto Stagi, 800 24 00 24, segnatelo perché domani torniamo, ma oggi abbiamo finito. Giorgio De Luca, il nostro autore, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronati, regia, ciao a tutti. Voglio soltanto suggerirgli uno psichiatra ed andare in analisi, perché mi sa che lo trovo, lo sento anzi molto esaurito. Tutto qua, ciao gente.